GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ministro della giustizia Carlo Nordio a Udine annuncia la sua riforma della giustizia civile per costi e tempi, e il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli ha visitato una struttura dell'ANFAS a Trieste. Tra i temi affrontati a margine, la legge nazionale sui caregiver e la disability card. Condanne per oltre 24 anni totali per la banda delle ruspe. Il tribunale di Pordenone ha condannato tre rumeni che scardinavano le colonnine dei self-service dei benzinai per rubare i contanti. La Guardia di Finanza scopre 68 lavoratori in nero a Trieste, 40 indossavano le pettorine da rider, ma erano impiegati in nero da 6 attività commerciali che sono state multate per 240.000 euro. Stranieri, ma ormai anche tanti italiani, lavoratori poveri tra gli assistiti della Caritas diocesana di Pordenone, un trend che emerge dalla report delle attività del centro d'ascolto presentato questa mattina. L'insediamento romano del primo secolo venuto alla luce a Cordovado durante gli scavi per il metanodotto sarà nuovamente seppellito. Gli archeologi raccontano di una villa di campagna e di un altro edificio. Ancora buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Francesca Vigori. Due ministri in visita oggi in regione, quello della giustizia Carlo Nordio, ha iniziato da poco il suo intervento a Udine in sala Iace, intervento preceduto dall'allarme degli avvocati sulle carenze di organico nella magistratura friulana. Al Palazzo di Giustizia di Udine manca il 40% del personale amministrativo e questo provoca inevitabili rallentamenti nella macchina burocratica. Iniziata con la richiesta urgente di potenziare gli organici da parte del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Raffaella Sartori, il convegno che vede la presenza in città del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un palazzo da ronco blindato dalle forze di sicurezza. Accanto a lui in sala Iace il sindaco Pietro Fontanini e l'onorevole Walter Rizzetto. In platea anche il gota degli industriali. Il dibattito, iniziato con mezz'ora di ritardo, è moderato dalla giornalista del Messaggero Luana De Francisco, è ancora in corso. Nordio ha da poco preso la parola. Nonostante i capisaldi più noti della sua dottrina siano penali, come il freno alle intercettazioni o la volontà di rivedere il reato di abuso d'ufficio per venire in soccorso agli amministratori locali, nel suo discorso si sta ora focalizzando sui costi e la lentezza della giustizia civile, che vuole riformare perché, come ha detto, è quella giustizia che ha più impatto sulla vita economica anche del Paese. Un impatto stimato in oltre il 2% del PIL. Vi daremo conto degli esiti del dibattito nelle prossime edizioni del GR e del telegiornale. Da Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Visita in regione oggi anche del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che in mattinata era a Trieste e nel pomeriggio si sposterà in Friuli, dove visiterà diverse strutture. Prima di lasciare la struttura c'è tempo anche per dipingere un pezzetto di quadro. Nel centro diurno dell'ANFAS c'è un laboratorio di pittura dove la ministra Locatelli, pennello in mano e acquarello rosso, siede con uno degli ospiti. Con altri ha appena visto un breve video che illustra l'articolazione dell'assistenza ai disabili ospitati negli appartamenti gestiti da ANFAS in centro città. Diversi provvedimenti nazionali in cantiere e sui quali la ministra si sofferma a margine della visita, dal tavolo nazionale sui caregiver ai decreti attuativi della legge quadro sulla disabilità. Uno riguarda l'accertamento dell'invalidità. Io mi auguro intanto che ci sia un percorso sicuramente di semplificazione e sburocratizzazione, ma soprattutto mi auguro che ci sia più l'attenzione alla persona stessa, perché non è detto che una persona che adesso ha l'invalidità al 100% non possa fare determinate cose. Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più le competenze e i talenti di ogni persona. Altro tema, la disability card, ancora sperimentale in 8 paesi europei, è distribuita in Italia a 100.000 persone, un documento che consente a chi ne ha diritto di accedere ad una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto nell'ambito dei trasporti, della cultura e del tempo libero. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. In regione oggi anche l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, che all'Università di Udine parla di una giusta ricetta per riformare le pensioni. L'iniziativa è aperta a tutti ed è organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche con i consulenti del lavoro. L'appuntamento è alle 15 al Polo Economico Giuridico dell'Università. E ora passiamo alla cronaca con la cosiddetta banda delle ruspe che rubava pale meccaniche nei cantieri per usarle per scardinare le colonnine self-service dei benzinai e rubare il contante. Il tribunale di Pordenone ha condannato 3 rumeni alla pena complessiva di 24 anni e 10 mesi di reclusione. I 3 imputati, un quarto indagato era morto annegato nell'Isonzo durante una fuga dai carabinieri, hanno tra i 26 e i 27 anni e sono tutti in carcere dal maggio del 2021. La sentenza si riferisce ad una serie di furti e a una rapina consumati in 3 momenti diversi. Uno in una notte di febbraio del 2021 a Savogna, a San Michele a Tagliamento, a Roveredo in Piano, Porcia e Pordenone. Il secondo a marzo 2021 a Gradisca e a San Vito al Tagliamento. Il terzo, sempre a marzo 2021, a Spilimbergo, Arba e Martignacco. Nei confronti di questi stessi imputati esiste un altro procedimento per cui è già stato richiesto il rinvio a giudizio, poiché la Procura ritiene che siano responsabili di altri 20 episodi per altri 120 capi di imputazione. A Trieste invece le fiamme gialle hanno scoperto 68 lavoratori in nero, 40 dei quali erano rider irregolari. Sono 68 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza di Trieste che lavoravano presso 6 attività commerciali situate in città. 40 di loro svolgevano l'attività di rider indossando pettorine e indumenti di noti servizi di consegna a domicilio con cui non avevano alcun rapporto. In realtà erano a tutti gli effetti dipendenti di altre imprese, in palese violazione della normativa giuslavoristica che prevede una maxi sanzione che varia a seconda del numero dei giorni di lavoro in nero svolti. 2 persone, cittadini italiani, percepivano il reddito di cittadinanza. I pagamenti di parte del personale non regolarizzato venivano effettuati in contanti in modo da non essere tracciati, una modalità non consentita dalla normativa in vigore. Le fiamme gialle hanno irrogato sanzioni per oltre 240.000 euro, suscettibili di riduzione in caso di regolarizzazione dei lavoratori. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'indomani del blitz contro la frode dei falsi vini DOP e IGP, l'analisi di un docente di enologia di Coldiretti, sentiamo. Le certificazioni sulle denominazioni di origine tutelata sono affidate a enti terzi cui spettano le verifiche sull'origine e la qualità del vino che per essere certificato DOP o IGP deve rispettare disciplinari di produzione molto rigidi che comportano controlli a campione in vigna e al 100% in laboratori specializzati a spese dei produttori. Eluderli è molto difficile, ma in un mercato molto ramificato come quello del vino non impossibile, afferma Roberto Zironi, docente di enologia dell'Università di Udine. Il suo osservatorio spiega che di fronte a un'elevata domanda da parte del mercato, come nel caso del Prosecco, l'offerta fraudolenta si organizza. L'importante è che venga tutelato il consumatore dal punto di vista della salute. Tutto il resto è una frode in commercio al solo scopo di business, rimarca Zironi, segnalando intanto che il vitigno glera, utilizzato per produrre il Prosecco, negli ultimi 5 anni è arrivato a rappresentare il 30% del vigneto Friuli, seguito per un altro 30% dal pino grigio. I due vini al centro dell'inchiesta ancora in corso della Procura di Udine per presunta frode in commercio. All'indomani del blitz, con perquisizioni in 30 cantine e aziende vitivinicole tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, il direttore regionale di Coldiretti, Cesare Magalini, esprime cautela. Aspettiamo di conoscere meglio i risvolti delle indagini, afferma, e intanto difende il settore, ricordando che è quarto in Italia per produzione di vino certificato a denominazione di origine, per un valore di oltre 800 milioni di euro. Per Magalini, la riprova della serie di un settore da sempre abituato a stare nelle regole e ai controlli a garanzia dell'intera filiera. Sull'indagine restano cauti anche i produttori. Spero si tratti di un errore di gestione da parte degli indagati, commenta Flavio Bellomo, presidente dei viticoltori friulani La Delizia, cantina cooperativa di Casarsa tra le prime in Italia per la produzione di Prosecco. Se così non fosse, aggiunge, sarebbe un peccato perché ne uscirebbe un'immagine sbagliata della regione. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature a Trieste 14 gradi, a Gorizia 17, a Udine Pordenone 16, a Tarvisio 15 gradi, a Tolmezzo 13, a Forni di Sopra 11, a Sappada e Piancavallo 7 gradi, sul Monte Lussari 7 gradi, sul Monte Zoncolan 3, a Lignano 15 gradi, a Grado 14. E dopo qualche giornata primaverile il tempo sta per cambiare già da oggi pomeriggio, come ci spiega Livio Stefanuto dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Sarà un fine settimana piuttosto vivace perché abbiamo due fronti atlantici che entrano in regione e ci porteranno delle piogge e delle nevicate in montagna. Il primo passa nella notte tra venerdì e sabato e il secondo da domenica pomeriggio. Non mancheranno però fasi anche di tempo soleggiato, in particolare nel pomeriggio di sabato e la domenica mattina. Quindi le piogge che ci aspettiamo saranno in genere più deboli sulle zone occidentali della regione, più abbondanti invece su quelle orientali dalle Prealpi Giulie e via giù fino all'Isontino e al Carso. Soffrirà anche un po' di scirocco, in particolare domenica, scirocco che sarà in genere moderato sulla costa, un po' di vento da sud-ovest anche in quota. Arriverà aria fredda progressivamente, quindi anche la quota neve tenderà a scendere. Il primo fronte porterà neve forse fino a 1500 metri nell'ultima parte, mentre domenica sera e nella notte di domenica lunedì la neve potrebbe scendere fino a 1000 metri circa. Sarà un peggioramento che persisterà per alcuni giorni sulla regione oppure sarà una cosa piuttosto passeggera? No, dovrebbe limitarsi soltanto al fine settimana, poi già da lunedì entrerà vento da nord con aria più secca, con raffiche che potranno essere anche sostenute e quindi ci sarà un deciso miglioramento del tempo tra lunedì, martedì e mercoledì. Stamani a Pordenone è stato presentato il report annuale del centro d'ascolto della Caritas diocesana. Tanti anche gli italiani che si rivolgono alle parrocchie e foranie della destra tagliamento per l'assistenza di base. In alcuni casi sono lavoratori poveri, come spiega la direttrice del centro d'ascolto, Adriana Segato. Il fenomeno di povertà incontrato è caratterizzato soprattutto da persone di nazionalità straniere, di diverse nazionalità, ma spicca il dato degli italiani che comunque su 1831 nuclei incontrati dalle parrocchie sono 444. Il volume un po' delle persone in generale sostenute dalle parrocchie si aggira quasi sulle 6.000. contando appunto che ogni nucleo porta con sé un numero maggiore, soprattutto per quanto riguarda le parrocchie che sostengono soprattutto nuclei familiari. È consolidato ormai il fatto che la Caritas non è solamente rivolta a cittadini stranieri e non solamente persone di nuovo arrivo, cosa che si evidenzia soprattutto nel centro di ascolto diocesano, mentre nei territori sono proprio le persone locali che vivono disagio spesso legato al fatto che hanno un unico reddito, magari lavorano ma sono i cosiddetti working poor, quelle famiglie che hanno un reddito a volte al di sotto della soglia di povertà, non ce la fanno, sono in carico ai servizi e le Caritas danno una mano soprattutto con beni materiali. Oggi, domani e dopodomani per l'intera giornata tornano in tutte le piazze d'Italia le uova di Pasqua dell'AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma. I fondi raccolti servono per finanziare progetti di ricerca, borse di studio, attività di assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Ogni euro è prezioso nella lotta alle leucemie e proprio grazie alla ricerca le speranze di vita e le condizioni dei pazienti hanno fatto negli ultimi decenni passi da gigante. Una villa di campagna di epoca romana, una casa vicina e una strada, la preziosa scoperta a Cordovado grazie agli scavi per costruire il nuovo metanodotto, scoperta che però entro fine mese sarà tutta reinterrata. Belvedere, località di Cordovado, grazie alla costruzione del nuovo metanodotto sono emerse delle strutture, degli edifici dell'antica Roma, databili fino a quasi 2000 anni fa, una scoperta eccezionale perché in quest'area non erano mai stati fatti degli scavi archeologici e questo rende veramente importante questo sito che purtroppo però entro fine mese sarà reinterrato nuovamente e per sempre. Ne parliamo con la direttrice dello scavo, l'archeologa Serena Di Tonto, della Soprintendenza alle Belle Arti della Regione Friuli Venezia Giulia. Perché è così importante questo scavo? Che cosa avete trovato intanto? Abbiamo trovato i resti di due edifici con una strada che corre fra i due. Il ritrovamento è molto importante perché in questa zona non avevamo scavi di questa entità e inoltre ci permette di studiare quella che era la pianificazione agraria del territorio. Avete trovato anche degli utensili, degli oggetti che vi danno un'idea di chi potevano essere gli abitanti di questa zona? Sicuramente gli edifici erano occupati da qualche proprietario terriero. Non abbiamo trovato tantissimi resti materiali perché i due edifici sono stati presumibilmente svuotati prima di essere abbandonati. Però la ceramica da mensa ci fa pensare che fossero delle persone importanti in qualche maniera. Perché bisogna reinterrare questa scoperta invece di magari andare avanti e scavare oltre? E purtroppo questa zona è una zona di risalita di falda, quindi al momento teniamo lo scavo all'asciutto grazie alle pompe, ma una volta spente le pompe lo scavo si riempirà e quindi purtroppo non lo possiamo tenere alla luce del giorno. Cordovado, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo di un comparto che, nonostante pandemia e caro energia, ha dimostrato una buona tenuta. Si tratta del mondo della cooperazione regionale, che da poco ha una nuova guida, la prima donna a diventare presidente della Lega Coop del Friuli Venezia Giulia. Una componente femminile sempre più corposa, una maggiore attenzione per i giovani che restano distanti dal mondo della cooperazione, i progetti sulle filiere per valorizzare i prodotti locali, ma anche il consolidamento dei rapporti con le università della regione. È il programma della nuova presidente di Lega Coop Friuli Venezia Giulia, Michela Vogrig, la prima donna al vertice del movimento cooperativo che, nonostante la pandemia, il caro energia e l'aumento dei costi, ha dimostrato una buona tenuta. Siamo riusciti a incrementare finalmente il numero delle donne, sono oltre il 30% le componenti della presidenza. A livello di organizzazione di struttura Lega Coop invece sono quasi tutte donne, di questo siamo molto molto felici, e adesso finalmente abbiamo raggiunto anche il livello apicale, insomma, per la prima volta nella nostra regione. Non solo offrire più opportunità ai giovani, ma anche nuovi progetti formativi nelle prospettive di Lega Coop regionale. Promuovere la cooperazione come modello di impresa, avviare ancora più iniziative che collegano la formazione, la ricerca, l'università, creando degli spazi sempre più trasversali anche per creare nuove opportunità cooperative, investire su quei settori dove la cooperazione, proprio per le sue caratteristiche, può avere una marcia in più. Penso alle comunità energetiche rinnovabili, in cui stiamo facendo un lavoro molto importante in regione e che speriamo di diffondere. Guardare a tutti quei progetti che guardano con un'attenzione particolare alle aree interne, al rischio di spopolamento che queste aree hanno. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Da Trieste a Lignano la carenza di personale rischia di compromettere la stagione estiva. Tra le figure difficili da trovare ci sono i bagnini. Siamo andati a Lignano, dove si è da poco conclusa la prima parte di un corso per diventare assistente bagnante, realizzato da un istituto scolastico insieme alla Federazione Italiana Salvamento. Sono ogni anno più introvabili i bagnini, o meglio assistenti bagnanti, che presidiano la sicurezza in mare o nelle piscine. Pochi giovani vogliono fare questo lavoro, che risente dei problemi di tutte le occupazioni stagionali, tra precarietà e paghe reputate basse a fronte di un grosso impegno e responsabilità. Anche con l'idea di far fronte a questa carenza, la Federazione Italiana Salvamento del Friuli Venezia Giulia ha stipulato convenzioni con gli istituti scolastici della regione, che permettono agli studenti di ottenere il brevetto anche con una riduzione del costo di iscrizione. L'Istituto Superiore Mattei di Latisana è una delle scuole dove c'è stato più interesse. Il corso era rivolto ai ragazzi che hanno compiuto 16 anni e si è tenuto al Bella Italia Village, con un contributo economico anche del comune di Lignano. 12 gli studenti che hanno frequentato e superato l'esame finale. Come ci spiega il coordinatore regionale salvamento della FIN, Marco Carlini, il primo brevetto permette di lavorare in piscina. È richiesto un mese e mezzo di lezioni, che si tengono una o due volte a settimana, più l'impegno nella parte teorica. Si può poi proseguire con il corso per il salvamento in mare. A spingere i ragazzi all'iscrizione anche il senso civico. Io, lavorando in spiaggia e facendo le stagioni e comunque abitando a Lignano, è molto importante per me essere pronto in qualsiasi momento, diciamo, nella spiaggia in generale, poiché non si sa mai cosa potrebbe accadere. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Inaugurato stamattina Eco Casa alla Fiera di Pordenone, 70 le aziende espositrici e i professionisti del settore pronti ad accogliere fino a domenica i progettisti, artigiani e rivenditori, ma anche tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazione, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. E nella busta c'è scritto Leo Acampora, portatore di handicap, sindrome dello spettro autistico. Quello che stiamo sentendo è un brevissimo estratto di un podcast che racconta dell'esperienza di una famiglia che scopre che il proprio figlio è autistico. Si tratta di una delle brevi storie che è possibile ascoltare da oggi fino a domenica a Udine, nell'ambito di una esposizione esperienziale allestita a Palazzo Valvason Morpurgo. L'iniziativa si chiama Mettiti nelle mie scarpe e richiede al visitatore di calzare fisicamente le scarpe della persona di cui sta ascoltando il racconto, storie di vita caratterizzate da difficoltà, dipendenze, malattie che troppo spesso nella nostra vita quotidiana non vogliamo vedere. Un modo per sviluppare quel muscolo della nostra anima che si chiama empatia. Scopriamo di più con Paolo Castagna, presidente della cooperativa sociale Itaca, che opera in contesti di difficoltà e che in questa occasione è la promotrice dell'allestimento. Clark Patey ha realizzato una sorta di negozio di scarpe in cui le persone possono entrare, calzare scarpe delle persone che raccontano la propria storia. In effetti si entrerà, si metterà le scarpe, ci si metterà la cuffia e si ascolterà dalla viva voce delle persone protagoniste la propria storia. Sono storie di fragilità, di vita quotidiana, che non è sempre bellissima, sono le fatiche della vita quotidiana, sono le malattie, sono la disabilità, la vecchiaia, i fallimenti. Ecco, in questo modo chi entra in contatto diretto con quella persona e capisce quella persona. Il racconto dura circa 10 minuti. In effetti in inglese era a mile in my shoes, un miglio nelle mie scarpe. E in questi 10 minuti c'è davvero un rapporto empatico con quello che si sta vivendo. Ecco, in questo si capisce allora il senso delle scarpe e dell'immedesimazione, perché in inglese mettersi nelle scarpe di qualcun altro vuol dire immedesimarsi, mettersi nei panni di qualcun altro. Esattamente. E non è così semplice, è anche molto intimo. Più di una volta ho sentito qualcuno che diceva no, ma io non me le metto, magari le prendo in mano ma non me le metto, perché effettivamente bisogna viverla l'esperienza, perché si viene toccati quando si vive questa esperienza. E in questo dobbiamo ringraziare la Fondazione Empatia di Milano, che ha i diritti di questa opera d'arte e con cui noi abbiamo collaborato per poter portare questa esperienza qui in Friuli. Quanti sono i podcast che si possono ascoltare e di che cosa parlano? Sono una quarantina di scarpe, quindi di podcast. Parlano di ludopatia, parlano di Alzheimer, parlano di tossicodipendenza, quelle cose che normalmente noi nella nostra attività affrontiamo tutti i giorni. Siamo allo sport, un mese dopo i campionati italiani di categoria, i Tuffi tornano a Trieste. Alla Bianchi, in programma da oggi a domenica la Coppa Parigi 2024, in gara 52 atleti in rappresentanza di 15 società. Per una manifestazione che rappresenta un primo scoglio importante della stagione, essendo valida come prima prova di selezione per gli European Games di Cracovia e i Mondiali 2023. Pallanuoto, nell'anticipo dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile, Trieste questa sera affronta in trasferta Bogliasco, si gioca nella piscina Gianni Vassallo con inizio alle 19:30. E sono cominciati in regione i preparativi che porteranno al Giro d'Italia 2023 dal 6 al 28 maggio. Tra le tappe del circuito rosa ci sarà anche la cronoscalata del Lussari in calendario 27 maggio e tutti i dettagli saranno svelati questa sera alle 19 al Palasport di Tarvisio. Prima di chiudere vi ricordiamo che continuano le trasmissioni organizzate dalla nostra redazione in vista delle elezioni del 2 e del 3 aprile. oggi la conferenza stampa della quale sarà protagonista Massimiliano Fedriga, presidente uscente della regione e candidato per il centrodestra, andrà in onda alle 13.15 su Rai 3 e per radio alle 17.05 su queste frequenze di Radio 1. La trasmissione sarà quindi visibile sulla rete in una sezione dedicata del nostro sito web rainews.it/tgr/fvg. E da Lorenzo Gerlinzoni e Francesca Vigori è tutto, con Mauro Ciccarelli alla parte tecnica, Valentina Veneruso in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.